per farmi apprezzare quello che ho. E anche se per un istante ho ceduto, so che più forte io mi rialzerò. Oh no, non sono solo quello che può sembrare. In ogni cosa cerco sempre un perché. Nulla è perduto, posso ancora cambiare. Sento una forza nuova dentro di me. Oh no, non ho paura di poter dare tutto quello che ho. Un personaggio di una nuova avventura. Resterò in piedi fino a quando vivrò. Sicuro che ci riuscirò. E anche se la vita è sempre più dura, con un coraggio nuovo l'affronterò. Oh oh. Anche se più non ti trovo, io so che stai viaggiando ancora con me. E che ti stai divertendo, ti vedo sempre col tuo buffo gile. Vai avanti, che tanta strada ancora a fare dovrai, e corri sempre.